fare i soliti santi, Santa Lucia, San Martino, che ovviamente non potevo più. Detto quest'anno facciamo così, alla fine del mese riserviamo una lezione in cui parliamo di un santo però contemporaneo, moderno, insomma recente, così. Allora abbiamo fatto Don Pino Puglisi, che è piaciuto tantissimo, li ha proprio affascinati. Abbiamo fatto Don Oscar Romero, Madre Teresa, Charles de Foucault, perché appunto avevo del materiale lì perché avevo fatto la tesi. E poi invece la settimana, il mese scorso abbiamo fatto Federico Osanam, che è il fondatore delle conferenze di San Vincenzo de Paolo, delle Vincenzo, chi, non so, magari nelle parrocchie ci sono i gruppi di San Vincenzo, voilà. Solo perché, siccome ero presente alla beatificazione, potevo dire: ragazzi, io faccio parte della storia, perché è stato beatificato nel 97 a Parigi durante la giornata mondiale della gioventù. Io ero là, in realtà infilato con due o tre amici, perché era ancora un tempo proprio diverso. Senza il pass siamo riusciti a entrare e salire sulle della Cité e andare alla messa, anche se non avevamo il pass per quella celebrazione lì, così, però tanto per dire come i tempi erano diversi, adesso non sarebbe stato più possibile. E allora i bambini sono stati tanto incantati da questa cosa, che dici: ma eri proprio lì? Ma io giuro, c'era una foto durante la beatificazione con le persone fuori, e detto: sì, io ero lì, sì, sul lato sinistro, sono sicuro. E allora adesso ho preso tutta questa pubblicazione dell'LDC, ci sono tutti vite di santi, e c'è questo personaggio che magari conoscete, Francesco Saverio Van Tuan, che era un cardinale del Vietnam, che ha avuto una storia tremendissima di persecuzione, appunto, è morto nel 2002, quindi insomma recente, quindi, che non è ancora neanche venerabile, né niente, nel senso che ha solo iniziato il processo di beatificazione diocesano, io non me ne intendo tanto, quindi è chiuso il processo di beatificazione diocesano e quindi hanno spostato la salma in una chiesa, adesso non so più dove, una chiesa di Santa Maria della Scala a Roma, e mentre leggevo questo mi faceva sorridere, perché pensavo ai commenti di Giovanni sui trasferimenti dei morti di qua e di là, così, che invece di occuparci dei morti dovremmo occuparci dei vivi. Ma al di là di questa pratica così un po' strana, in realtà è una testimonianza di fede pazzesca, perché lui è stato 13 anni in carcere, di cui 9 in una stanzetta dove non aveva neanche la finestra, quindi prendeva un po' d'aria da un buco che aveva trovato così, e a un certo punto è riuscito a farsi portare da qualche parente di nascosto un po' di vino e delle ostie per poter fare la messa. Diceva, a un certo punto dice: io ho celebrato per anni la messa con due goccine d'acqua e di vino nel palmo della mano, e questo mi ha sostenuto. Mi ha proprio colpito. E a un certo punto è riuscito a convincere il cancelliere che li ha convertiti tutti. Il mal di stomaco li avrebbero portato. Voilà, per il mal di stomaco. Così, per insomma. Per sollevarsi. Gli hanno permesso, era vino. Sì, e ha convertito quasi tutti i carcerieri. Poi dopo è stato. Poi lo spostavano. Sì, sì. E poi l'hanno spedito via, perché appunto tanto non riusciva, era pericoloso, effettivamente dice, proprio pericoloso. Era più pericoloso in prigione che fuori. Sì. E lui dice: io avevo la mia parrocchia, adesso la mia parrocchia sono questi qua, sono i compagni di carcere, i carcerieri, e pazzesco, è proprio una bella testimonianza. E a un certo punto c'è anche, ci sono alcuni libri scritti, raccolte di cose che lui ha fatto, ha predicato anche gli esercizi spirituali nel 2000, forse 99, al Papa, insomma, alla Curia, così. E siccome c'è un pezzettino di una preghiera, me ne leggo solo un pezzo, e cita il Regno di Dio, quindi così per cominciare, riprendere un po' così. Come cristiano fedele, non posso non vivere la fede, non vivere come Cristo ha vissuto, non annunciare il Regno di Dio fra gli uomini. Perciò, e poi ci sono 10 articoli, un decalogo, solo Dio può dare la fede, ma tu puoi essere un testimone di fede. Solo Dio può dare la speranza, ma tu puoi suscitare fiducia negli altri. Solo Dio può dare la carità, ma tu puoi mostrare agli altri come amare. Solo Dio può dare la pace, ma tu puoi seminare l'unità. Solo Dio può dare la forza, ma tu puoi farti prossimo per sostenere i disperati. Solo Dio è la via, ma tu puoi indicarla ai fratelli. Solo Dio è la luce, ma tu puoi far sì che essa splenda davanti agli altri. Solo Dio è la vita, ma tu puoi trasmettere la voglia di vivere. Solo Dio può realizzare cose che sembrano impossibili, ma tu puoi realizzare il possibile. Solo Dio è Dio, ma Egli vuole il tuo aiuto. Ho trovato bello. Non posso non annunciare il Regno di Dio fra gli uomini. Bene, allora io vi proporrei ancora il commento di Maggioni, che forse anche più immediato rispetto alla parte più esegetica che abbiamo fatto prima. Lo trovate tutto, c'è la bibliografia, c'è proprio tutto il commento del Padre Nostro, credo di l'edizione Vita e Pensiero, è proprio bello, vale proprio la pena. Di Maggioni è profondo ma anche semplice da approcciare così. Tutto bene? Sì. Allora, ho già accennato prima al fatto che appunto venga il tuo regno, e questa domanda, la seconda domanda del Padre Nostro, e il regno non è qualcosa che deve venire totalmente nuovo, ma è qualcosa che è già presente nella storia, ma in qualche modo rimane incompiuto. E Gesù ci dà appunto l'inizio di questo, di questa nuova realtà. Apparentemente sembra che tutto continui come prima, non è che nel momento in cui abbiamo detto, Gesù ha detto venga il tuo regno, o noi preghiamo venga il tuo regno, le cose cambino. Quindi appunto un po' come dicevamo prima nel momento di riposo così, no? Che forse si tratta proprio di cominciare a cambiare dentro di noi, no? Appunto sentire questa parola di questo vescovo, dire non possono annunciare il regno di Dio, e non l'ha fatto appunto facendo grandi omelie, perché sono 13 anni incarcerato, ma ha vissuto in qualche modo particolare la situazione. A un certo punto lui dice, ho riflettuto tanto, io facevo delle cose interessanti, perché gli diceva, io sapevo che la questione sarebbe precipitata in Vietnam, prevedevo, ma era facile da prevedere che sarebbe stata un'invasione dal Vietnam del Nord, e quindi ho fatto tutto quello che potevo, e era rettore del seminario, per preparare sacerdoti in gamba che sapessero poi reggere la situazione dopo, per lavorare con i bambini, le parrocchie, sono quello che potevo, e poi mi sono trovato appunto in carcere così. E lui dice, all'inizio dice, ma caspita, io faccio delle opere, le opere di Dio, sono le opere di Dio, non erano opere di qualcun altro. E poi quando sono stato nel carcere ho sentito proprio che dovevo fare questa conversione dalle opere di Dio a Dio, non dovevo scegliere le opere di Dio, che erano già, le può fare qualcun altro le opere di Dio, ma scegliere Dio invece dipendeva da me. Quindi dice, io ho deciso che minuto per minuto riscelgo te. Non so, questo potrebbe essere un modo molto attuale per dire venga il tuo regno, cioè ogni giorno, ogni minuto quasi, lui diceva ogni minuto, perché appunto ovviamente non sapeva se il minuto dopo sarebbe stato ancora in vita, perché magari non si sentiva di reggere quella situazione, oppure da un momento all'altro potevano arrivare a ucciderlo, perché come l'avevano incarcerato senza nessun processo, niente, insomma la sua fine poteva essere assolutamente così casuale, finire in un momento. Alcuni esegeti pensano che questo venga il tuo regno sia una finta domanda, cioè in realtà quasi un modo di dire per in realtà lodare Dio, appunto con lo stile del Salmo che abbiamo letto prima, no? Utilizzare appunto la categoria del regno per lodare Dio per il fatto che Dio già c'è. Ma in realtà invece per Maggioni la domanda è una vera domanda, cioè un'invocazione vera, cioè il cristiano chiede proprio, no? Noi crediamo veramente che questo regno venga, che qualcosa succeda nella nostra vita. La prima cosa da guardare è che il regno è il regno di Dio, e già non è il nostro, cioè è qualcosa che deve fare Dio e che appartiene a Dio, non siamo noi, il protagonista non è l'uomo che deve farlo, il protagonista è proprio Dio, è il regno che Dio che viene, non noi che dobbiamo andare da Lui. Poi se abbiamo tempo vi leggo il commento di Lutero, scritto nel 1500, non so perché, poi magari guardiamo anche la data, e lui dice... vabbè, lì si legge chiaramente la polemica rispetto al mondo cattolico, ma al di là della polemica, quindi bisogna un po' toglierlo fuori, no, dalla situazione, lui dice, Dio ha detto venga il tuo regno, non noi andiamo nel tuo regno, quindi sembra che noi dobbiamo fare delle cose per, no? E lui dice, c'è qualcuno che per andare verso il regno di Dio costruisce delle chiese, qualcun altro una cappella, qualcun altro fa un pellegrinaggio, no, ma noi dobbiamo far venire il regno da Dio da noi, noi non noi sforzarci per fare delle cose. È chiaro che però, come ci dice Maggioni, è vero che il regno è il regno di Dio, quindi è la sua opera, ma c'è un coinvolgimento in prima persona dell'uomo, altrimenti diventerebbe appunto quella filone di pensiero che vi ho accennato prima, come potrà realizzarsi questa cosa così bella, cioè questa situazione di pace, di ricostruzione, di serenità, di vita sociale andata bene, cioè un'opera di Dio indipendentemente da noi. Ma noi l'abbiamo capito in base allo stile dell'incarnazione di Gesù, il coinvolgimento in prima persona dell'uomo deve esserci. Il fatto che appunto la signoria, il regno sia quello di Dio, vuol dire che il mondo che ci è dato, noi non siamo signori del mondo che ci è dato. Sarebbe bello poter andare a riprendere i passi dell'inizio del libro della Genesi, dove appunto Dio affida all'uomo il creato e dice, sì, signore del creato, ma signore come non sono stato io, non come pensi tu, come, oppure signore come il re che abbiamo letto prima, no? Quello che prende e niente altro. La prima cosa che dovrebbe venirci in mente quando una delle prime cose da farci venire in mente quando preghiamo venga il tuo regno è che appunto il regno si realizza su questa terra non è nostra, è di Dio, e allora noi dovremmo averne cura e non possiamo utilizzare e pensare alla terra come una cava di pietre da cui possiamo tirare fuori tutte le pietre che ci servono così, come viene bene. Forse sarebbe meglio pensare appunto all'idea della custodia, no? Come che l'ordine, l'invito, l'ordine di Dio ad Adamo ed Eva, diciamo così, no? Dominate ma custodite, oppure dominate nel senso siate signori come sono stato io signore, cioè come è stato signore Dio, come è stato il signore del creato, dividendo, mettendo ordine, mettendo armonia, dividendo il buio dalla luce, le acque dalle acque, le terre, facendo germogliare le piante, facendo venire gli animali. Quindi questo è il modo di essere signore del creato. E mi è sembrato che ci fosse un bel riferimento alla Laudato Si di Papa Francesco. Se non avete ancora pensato alla penitenza per la confessione di Quaresima, potrebbe essere questa, leggete la Laudato Si, che non è una penitenza, vedrete che è una bella cosa, un bello studio anche, si vede che è un'opera non solo sua, chiaro, nel senso che è un lavoro serio di persone competenti, così. Se invece preferite leggere quella sulla santità, altrettanto bella. Dove abbiamo delle informazioni sul regno, anche Magione si concentra sul fatto che le informazioni che abbiamo di più sul regno ci vengono dalle parabole. Allora, le parabole ci aiutano a capire qualcosa di più, a mettere dei pezzettini per completare la nostra visione di cos'è il regno di Dio. Intanto è interessante come nelle parabole appunto Gesù presenta l'uomo anche come attore, fa qualcosa dentro queste parabole, e l'attenzione passa. Per esempio quella del seminatore, passa dal seminatore, che potrebbe essere Dio, no? Quello che semina, poi al seme stesso, quindi l'attenzione si concentra anche sul regno e questo seme diventa il vero protagonista della situazione. Se pensiamo invece a quello che, dell'altra parabola, quella del seme che cresce da solo, no? Che nella versione di Marco che dice viene gettato il seme e poi il seminatore sta lì a guardare, dorme o vegli, il seme cresce automaticamente, dice un termine più o meno così, ci presenta un po' la storia del regno come divisa in tre tempi: il momento della semina, il momento della crescita e poi il momento della raccolta, quando passa la falce. Una cosa che mi ha colpito, adesso non mi ricordo dove l'avessi letta, l'immagine della falce che taglia il grano fa sempre venire in mente, non so, almeno a me faceva venire in mente qualcosa di tremendo, la falce, perché forse l'abbiniamo un po' all'immagine, l'abbinavo all'immaginario della morte con la falce così. In realtà, se noi guardiamo la realtà, cioè il momento in cui il contadino, adesso non fa più con la falce, la farà con il macchinare, ma il momento in cui raccoglie è il momento della gioia, della festa, perché cioè, tu hai seminato nella speranza di avere poi il grano e di venderlo o di fare la farina e poi fare il pane. Quindi non è il momento del dramma, è il momento della festa. Quindi quando dire che la falce è vicino allo stelo di grano non è immaginarci, arriva la morte, accidenti, così. No, è il momento della festa, è il compimento, no? Quello che è stato seminato porta frutto finalmente, perché il frutto deve essere poi tagliato e trasformato in farina, se no se lo lasciamo lì e non lo tagliamo marcisce o se lo mangiano i topini. Allora, di questi tre tempi, il tempo della semina, il tempo della crescita, il tempo della raccolta, la parabola piccolina così di Marco indugia in particolar modo proprio sulla fase intermedia, quella della crescita, dove sembra che l'uomo non faccia niente, ma è proprio qualcosa che succede, è lì che succede qualcosa, appunto cresce questo regno. Cosa dovrà fare l'uomo? Porsi un atteggiamento di attesa fiduciosa. E poi l'altra sfumatura particolare dell'altra parabola, quella del buon grano e della zizzania. Mi sembra che in qualche modo dica bene quello che avevo un po' accennato prima, no? Questa universalità. Il regno di Dio è per tutti. Noi neanche siamo in grado di distinguere quelli che appartengono al regno di Dio. Ma che bello. Questo ci solleva da tante macchinazioni. Ma allora, se tu non appartieni a questo gruppo e se dici quella roba lì, no? Ma no. Gesù, state tranquilli, crescete insieme e poi vediamo, insomma, perché non sappiamo distinguere, no? Il fatto che dire, quell'immagine di dire se tiro su un po' di erbaccia finisce che tolgo anche il grano, in qualche modo è perché non so distinguere, allora non sappiamo neanche ben distinguere chi appartiene al regno e chi no, noi, Dio sì, per fortuna, e questo vuol dire che il criterio non lo diamo noi se apparteniamo o no al regno, ma il criterio ce lo dà il Vangelo, appunto, quella universalità, quella non violenza, non potenza umana, quell'attesa, quel lasciare che sia il seme che lavora dentro di noi. Senza entrare nelle robe tecniche, ma il tempo del verbo che viene utilizzato, venga il tuo regno, un tempo particolare del greco lauristo, ma non è così importante sapere quel nome lì, che ci dice che si riferisce non tanto a quello che vi dicevo prima, uno sviluppo progressivo del regno, ma anche alla venuta definitiva, quella che appunto col termine un po' più tecnico si dice escatologica, no? Finale. La nostra invocazione è che questo regno, che è già presente, giunga fino al suo compimento. Questo vuol dire che pone, nel momento che io prego venga il tuo regno, guardo in modo diverso il mio tempo. Mentre sto preparando la seconda puntata dei comandamenti da fare da Don Gianni all'Alma, e mi sono fermato un po' a riflettere sulla ho letto dei libri di Ravasi che sono fatti bene, sul comandamento del rispetto del sabato, non della santificazione del sabato, così. E lui fa tutto un discorso sul significato, sul senso del tempo. E mi sembrava, ma guarda come abbiamo fatto male a tirare fuori, però non potevamo anche fare così, tirare fuori il decalogo e staccarlo dal contesto, no? Se noi lo stacchiamo dal contesto biblico, non è che diciamo un'altra roba, ma perdiamo un'infinità di elementi, no? Abbiamo fatto diventare andate alla messa alla domenica, al massimo sabato sera, perché sennò poi finita l'inferno, come diceva sempre Giovanni, no? Che se quel peccato lì l'aveva inventato la Chiesa, perché andiamo dritti, filate all'inferno se non rispettiamo il precetto festivo. Invece quel precetto lì, quel comandamento, tra virgolette, parla della santificazione del tempo, nel senso di dare senso al tempo di tutti i giorni, e diamo senso al tempo della nostra settimana se noi riusciamo a fermarci un giorno. Se poi non sarà la domenica, pazienza, voglio dire, no? Il problema non sarà se la domenica dobbiamo tenere negozi aperti o chiusi, perché se è solo quella roba lì, è una roba, mi sembra un po' troppo banale, e dire, ma il mio tempo, che qualità ha? E il regno, la parola regno di Dio, l'invocazione venga il tuo regno, se noi la colleghiamo appunto con questa dimensione, è qualcosa che c'è già, ma è qualcosa che deve venire, c'è un'attesa, questa roba qua deve, come dire, riqualificare la qualità del nostro tempo di tutti i giorni, no? Come dire, tutti i giorni sono importanti, tutti i giorni sono un'invocazione perché questo regno venga e venga dentro di me il più possibile. È un'invocazione per dire, suscita ancora dentro di me il desiderio del bene, il desiderio di bene per le persone che sono accanto, che sarà mia moglie, mio marito, i miei figli, i miei nipoti, i miei genitori, i miei fratelli, le persone con cui lavoro, le persone con cui condivido il mio tempo, le persone con cui magari ho l'occasione di fare un piccolo servizio di carità, non so dove siamo, ma è veramente un invito a dare qualità a quel tempo lì. Siccome stiamo parlando, appunto, vi ho detto che il tempo è anche quello del compimento definitivo, quando noi diciamo venga il tuo regno e quindi pensiamo a questo momento finale, dobbiamo essere un po' prudenti, attenti a non immaginarci qualcosa di diverso da quello che è la venuta di Gesù. L'avvento di Dio definitivo, diciamo escatologico, non sarà diverso da quello che è successo con l'esperienza di Gesù nei suoi 30 anni di vita sulla terra. Cosa voglio dire? Vabbè, le cose adesso vanno più o meno bene, anzi, più o meno male. C'è un sacco di fatica e le malattie e le disoccupazioni e le guerre, però poi Dio arriverà e ristabilirà tutto e rovescia tutto, quindi noi dobbiamo, però questo lo possiamo immaginare noi, nella nostra fantasia, nel nostro desiderio, magari anche un po' di onnipotenza, così quelli cattivi li sistemiamo e noi che siamo i buoni naturalmente finalmente una vittoria. No, in realtà la venuta del regno sarà esattamente nella stessa categoria della venuta di Gesù, cioè quei 30 anni di silenzio è un annuncio di misericordia e di vicinanza, di ospitalità e di accoglienza. Quindi se noi ci aspettiamo, quando pensiamo venga il tuo regno, come il capovolgimento delle situazioni attuali, è qualcosa che non è il Vangelo non ci autorizza. Da cosa deduco questa roba qua? Avete presente l'immagine dell'Apocalisse, che appunto in qualche modo con quelle immagini appunto apocalittiche, quindi tutto linguaggio da decifrare con tanta fatica, perché noi non abbiamo più quella mentalità lì, non sappiamo più cosa significano quelle robe, i draghi, le corna, gli occhi, il fiume, il serpente, complicatissimo, perché noi non usiamo quel linguaggio abitualmente quando parliamo, mentre chi ha scritto aveva familiarità con quel linguaggio lì. C'è un'immagine che mi colpisce sempre tanto, che è quella dell'agnello. Gesù viene rappresentato come agnello immolato ma reso in piedi. Credo che nella liturgia di Pasqua queste letture verranno lette, no? Qua e là, nel tempo di Pasqua, non la domenica di Pasqua sicuramente, ma dopo. Se l'Apocalisse è, come sembra che dicono gli esegeti, un tentativo per dire cosa sarà il definitivo, Dio non arriva lì con trombe, cavalli e cavalieri e ribalta le situazioni. Dio si presenta, o Gesù si presenta, come un agnello immolato, in piedi, ma immolato. Quindi l'agnello è, credo che sia l'unico animale che non spaventa nessuno, tanto più se è stato immolato. Quindi immolato intendo sgozzato, o forse il termine è proprio sgozzato così. Quindi vuol dire che quando noi pensiamo all'invocazione venga il tuo regno e pensiamo al momento definitivo, dobbiamo immaginarlo come il compimento di quello stile di accoglienza, di fraternità, di vicinanza che era lo stile di Gesù. Non è che prima ce l'ha contata un po' così e ho detto vabbè, siccome non mi hanno capito, poi dopo gliela spiego bene e gli do una martellata sui denti, così vediamo un po' chi è che ha ragione. Questo mi sembra che è un po' anche, per esempio, il pericolo dei movimenti millenaristi, se volete, e del resto mi spiace, cito di nuovo un poetessimo di Geova, loro vedono proprio questa roba qua. Quando Dio ritornerà, quando Gesù ritornerà, l'evento definitivo ristabilisce le cose, nel senso che la farà pagare a sti cattivoni e noi che siamo stati buoni saremo salvati. Però non mi sembra che sia autorizzato dalla scrittura, non è una mia idea, ma mi sembra che invece è compimento di quello stile là, se no sembra che la prima minuto di Gesù, cioè il Vangelo, sia una roba così, adesso, per finta, poi dopo la questione vera sarà la giustizia, che però mi sembra che sia tanto di più la nostra giustizia, no? Quella in cui mettiamo in carcere i colpevoli, che va bene, non è che non devono stare in giro, però insomma non so se è proprio quella anche la giustizia di Dio. Ho cominciato a leggere e studiare un pochettino all'inizio della lettera ai Romani, dove parla appunto del tema della giustizia di Dio. È un po' complicato perché è un testo molto difficile, adesso mi scappa anche l'autore, Romano Penna, che è qui nostro qua, di questa zona qua, comunque italiano, aiuta proprio a capire come non abbiamo mica capito niente sulla giustizia di Dio, ma è un tema così, non posso dire, anche perché merita uno studio molto più serio. Altra pennellata che ci propone Mangione è il fatto che Gesù e il regno quasi si identificano, ne avevo già accennato prima. Scusa, il regno quasi? Si identificano, Gesù e il regno di Dio si identificano, sono la stessa cosa. Tanto che appunto la parola, per dare un po' di statistica, la parola regno ricorre 99 volte nei sinottici, quindi Matteo, Marco e Luca, e 90 volte in bocca a Gesù, per cui è lui che parla del regno, è lui che ci dice qualcosa del regno. Le altre volte sarà magari, immagino che sia quando, durante il processo, potrebbe essere, oppure qualcun altro che fa delle domande, così, quando fa le domande. Quindi non, chi definisce il regno di Dio è sempre Gesù, nel Vangelo. L'altra identificazione fra regno e vicinanza di Dio. Se avete presente, Marco inizia con il Vangelo di Marco inizia al versetto 14 del primo capitolo: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quindi la regalità di Dio si può identificare con un regno di Dio, si può identificare con un Dio che è vicino. Il regno di Dio ci parla anche di un nuovo volto di Dio, del Dio che è vicino, non più quello lontano. Pensate all'immagine che l'identità che ha per gli ebrei Dio è quello più lontano, no? Avete presente come è strutturato il Tempio di Gerusalemme? Una serie di cortili successivi che partono dall'esterno fino al punto centrale dove c'è diciamo l'Arca dell'Alleanza, tra l'altro vuota, già quello è interessante, e una serie di passaggi per cui nel primo cortile ci potevano andare tutti, anche gli stranieri, poi c'era uno sbarramento, un muretto che diceva chi di voi sorpassa a spese proprie degli stranieri. Poi c'era il cortile dove potevano andare tutti, comprese le donne. Poi c'era il cortile dove potevano andare tutti, solo gli uomini. Poi c'era il cortile dove potevano andare tutti i sacerdoti. E poi di là in poi c'era ancora il santo dei santi, dove poteva andare solo il sommo sacerdote una volta all'anno. Quindi l'idea di Dio era di un Dio lontano, ma non è una roba brutta e cattiva, nel senso che Dio rimane, ci sfugge sempre dalle mani. Dicevo l'altro giorno da Don Gianni, io mi ricordo che con Giovanni, qualche volta anche in conversazioni qua così intorno al caffè, lui diceva: ma più vado avanti, è detto da lui, capisco che di Dio bisognerebbe dire meno possibile, perché quando diciamo qualcosa tendenzialmente sbagliamo e lo riduciamo, perché se ci pensate è vero, noi parliamo di Dio come se parlassimo di mia zia Maria, invece è come se l'avessimo così nelle mani. Quindi gli ebrei hanno utilizzato questa immagine della distanza di Dio per dire appunto: non è che possiamo metterci le mani sopra e modellarlo a nostra immagine e somiglianza. Il regno di Dio ci avvicina, ci fa vicino un pochettino, Dio ce lo avvicina un pochettino di più, dicendo appunto: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, Dio è vicino, e credete al Vangelo, e il Vangelo appunto questa buona notizia del Dio che si fa più vicino. Rimane vero che fra noi e Dio rimane ancora Gesù, la storia di Gesù, la carne di Gesù, così tanta carne che anche la risurrezione c'è la carne, rimane, quindi noi, e la carne oggi è questa roba qua, che non è, cioè è la Bibbia, è il Vangelo, perché non abbiamo più Gesù in carne rossa. Quali sono i tratti del volto nuovo di Dio? Chiaramente i tratti della misericordia e dell'universalità, che in qualche modo possiamo già trovare anche nell'Antico Testamento, soprattutto magari nei profeti, dove c'è questo slancio. Isaia, al ritorno dopo, più o meno nella zona, credo addirittura proprio al capitolo 66 finale, quindi alla fine del libro di Isaia, parla di un annuncio per tutte le persone, per tutte le genti, anche gli stranieri che si avvicinano, quindi una misericordia e un'università già per tutti. Ancora un'altra pennellata, direi questo, che il Padre Bangione ci fa riflettere su questo, che il Padre Nostro è la preghiera del discepolo di Gesù, l'ho già un po' accennato prima, non è la preghiera di chiunque, soprattutto è la preghiera di Gesù, del discepolo, cioè di colui che è tutto concentrato nell'attesa di questo regno, cioè di colui che ha preso seriamente in conto quella richiesta di Gesù: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e il resto vi sarà dato di più. Cosa dice Maggioni? Noi se ci disperdiamo a cercare mille cose nella nostra vita, cercare tutto e cercare niente, no? Come si dice, è tutto niente, no? Quell'espressione che usiamo anche in altri contesti. Invece no, il discepolo di Gesù è quello che ha ben in mente cos'è il centro della sua ricerca, del suo sforzo, del suo impegno, quello appunto di cercare il regno, con tutte quelle sfaccettature complesse e variegate che rispettano anche la nostra cultura, il nostro tempo, il nostro momento, le nostre energie, le nostre possibilità, il cambiamento di impegni, di queste robe qua. Però è lì il grande desiderio del discepolo, dovrebbe essere quello del regno. Il rischio è che se io non ho questo desiderio dentro il cuore, quando prego venga il tuo regno, potrei dire anche un pezzo di una poesia di Leopardi, che magari è anche più bella, e ha lo stesso effetto. Perché cosa succede? La preghiera non tocca sulla nostra vita. All'inizio avevo letto quella frase di Dupont che diceva: Luca ci presenta la preghiera nel capitolo 11, in quei pezzettini che abbiamo letto, non solo nella preghiera del Padre Nostro, non come una formula magica per forzare Dio a fare qualcosa per noi, ma per vivere secondo lo Spirito, di vivere, ricevere lo Spirito e cambiare modello della nostra vita. Allora appunto il desiderio, dire venga il tuo regno senza un desiderio vuol dire, ripeto delle parole, dire venga il tuo regno col mio desiderio innestato in quelle parole lì vuol dire: beh, allora io cosa faccio? Finita la preghiera, cosa faccio? Io mi ricordo il padre della Città dei Ragazzi diceva sempre: la messa, ma va benissimo anche la preghiera, non finisce quando io mi alzo da davanti all'Eucaristia, comincia subito dopo. E lui diceva sempre, ed è una roba che quando sono lì a fare un momento di preghiera ogni tanto, perché mi sono preso una sua immaginetta, quindi è come se mi sgridasse col dito così, Non alzatevi mai dal momento della preghiera senza aver preso una decisione concreta da fare subito, sull'immediato. Non, beh, adesso mi impegno poi tra 2 anni a fare poi volontariato in Africa. No, no, oggi con mia moglie, mio marito, mio figlio. Lui era molto concreto, perché era una persona, non era solo concreto a parole, era concreto nella concretezza. E allora sì, se c'è il nostro desiderio dentro la preghiera, allora la nostra vita cambia anche un po', un briciolo, un po' oggi, un po' domani, tanto abbiamo un sacco di tempo, speriamo. Ancora una notazione, dentro l'invocazione venga il tuo regno c'è anche un'invocazione che riguarda il desiderio di Dio. Allora noi sappiamo, Gesù ci ha promesso che noi possiamo incontrarlo, incontrare Lui, incontrare Dio in tante situazioni, nella preghiera, nella Sua parola, nel servizio dei poveri, in qualche servizio che noi svolgiamo, nella relazione di coppia. Ognuno sa più o meno e ha sperimentato l'incontro con Dio. Ma è anche vero che con questo incontro sperimentiamo anche quasi sempre quasi una delusione, nel senso che è sempre un po' meno rispetto a quello che noi desideriamo avere e vivere. Un po' perché noi c'è anche in noi, diciamo, quell'aspetto che possiamo chiamare in modo generico il peccato, che quindi, come dire, non ci avvicina. Ma poi proprio perché l'incontro con Dio è un desiderio che supera, la nostra attesa supera poi la realtà della realizzazione. Ma la preghiera ci autorizza proprio a dire, è proprio così. Ma proprio questa tensione, per il fatto che tutte le volte che incontro, anche quando sento che ho incontrato Dio nella preghiera, nella parola, nell'Eucaristia, nel servizio ai poveri, appunto, ognuno di voi, di noi sa il modo con cui incontra Dio, nell'incontro casuale con quella persona così, ma poi rimane la nostalgia di un incontro ancora di più. E venga il tuo regno, dice anche un po' questo aspetto qua, del desiderio grande di Dio, non soltanto che Dio venga, ma proprio dell'incontro con Dio nostro. E lo alimentiamo e lo lasciamo, perché questo desiderio fa proprio parte di questo tempo che noi viviamo. L'ultima pennellata che ci propone Maggioni è il fatto che, appunto, come abbiamo detto prima, Padre nostro è la preghiera sicuramente del cristiano, del discepolo così, ma lui dice, secondo me, è anche la preghiera che può dire qualcosa anche chi non è cristiano, direi non che non credente, ma questo sappiamo già, forse Monica o Duilio ce lo dirà in qualche occasione, non possiamo più dividere fra credenti e non credenti, siamo tutti credenti, poi ognuno crede in cose diverse, anche chi si proclama ateo crede e vive di fede, Lo dicevo l'altro giorno forse con Franco e Franca mentre mangiavamo cena, io oggi ho vissuto di fede perché ho sperato che in questo caffè che ho preso, che non ho visto chi ha fatto, non ci fosse del veleno, e viviamo di fede l'uno nell'altro, non ci accorgiamo, Poi appunto, siccome conosco, penso che l'abbia fatto Beatrice e conosco Beatrice, ho buona fede in lei e sento che la mia fede è riposta bene, o non so che se l'ha fatto qualcun altro fa lo stesso, insomma. Però ho posto bene la mia fede perché appunto so che la conosco. E la stessa cosa è per noi, no? Tutti viviamo di fede e poi decidiamo a chi affidiamo questa nostra fede per poter viaggiare, vivere la nostra quotidianità. Mi fido di mio marito che o mia moglie che quando mi addormento non mi dia una bastonata sulla testa. Mi fido che quel signore che è dall'altra parte del semaforo a rosso si fermi. E per cui io passo tranquillo col verde perché so che viviamo sempre di fede, di buona fede. Poi sono affidiamo la nostra fede a situazioni buone, a volte non buone. Quindi, solo per dire che non distinguiamo più fra credenti e non credenti, tutti siamo credenti e ognuno poi sceglie dove appoggiare la propria fede. Maggiore dice che la preghiera del Padre nostro, pur essendo la preghiera tipica e impegnativa del cristiano e del credente, può dire anche qualcosa all'uomo non cristiano, ma non all'uomo qualunque, dice. Non all'uomo senza qualità, quello che vivacchia, ma sì, facciamo passare il tempo, tanto per. Ma a quell'uomo che, anche se non vive appunto una fede specifica religiosa, sente però il desiderio di qualcosa di più. Sente il fascino per il bene, il fascino per la giustizia, il fascino per la condivisione, il fascino per una vita di più. Io credo che tutti noi, e poi più abbiamo anni, più è facile che sia successo questo, abbiamo incontrato delle persone che appunto, usando le categorie di prima, non credenti, non cristiane, non fanno parte del nostro gruppo, ma che ci danno insomma degli esempi di dedizione, di attenzione, di cura, di passione per la giustizia, di impegno in qualche gruppo, in qualche che a volte cioè, insomma superano. E allora Maggiore dice, forse in qualche modo quell'uomo, quella donna, quel bambino, quell'anziano, quella persona che vive in questo modo, cioè afferrato da un ideale di giustizia, di pace, non so, penso a quella ragazzina svedese, che ha movimentato tutto questo movimento che speriamo duri, perché in realtà poi appunto il rischio è che, passato quel venerdì 15 marzo, boh, ce lo dimentichiamo un po'. Io non so se è credente, se è cristiano, se è cattolico, non importa, però è presa da una. E allora in qualche modo immagino, dice, anche quella ragazza lì, anche, non so, Gandhi, pensate Gandhi, è una figura che, su cui diciamo, senza dubbio non era cristiano, ma preso dall'idea di giustizia e di liberazione per il suo popolo, in qualche modo lui ha pregato, venga il tuo regno, proprio in quel senso di mi faccio prendere da una delle questioni del regno, appunto, la giustizia, per esempio. Questo vescovo, quando è arrivato, poi appunto, quando è stato liberato, l'hanno appunto cacciato dal Vietnam, e quindi lui è andato a Roma, perché a Roma c'era già stato, aveva studiato quando era più giovane, così, e l'hanno messo a lavorare nel Dicastero di Giustizia e Pace. E adesso forse, ma comunque anche citando così, ecco, dice così: io vengo da un paese che ha sofferto quasi 40 anni di guerra, dice il vescovo, perciò capisco la gente che ha vissuto la guerra, le loro sofferenze sono state nella propria carne e non nella teoria. Per questo motivo penso alla giustizia e alla pace, come dire, l'uomo giusto al posto giusto, un commento di un altro vescovo, no? Diceva, perché l'ha sperimentato. Quindi, per dire, venga il tuo regno, può essere veramente la preghiera di tanti, anche di chi non è cristiano, non è cattolico, non è discepolo di Gesù Cristo, ma se è caratterizzata appunto da quei contenuti che ho provato un po' a delinearvi, non in modo preciso, perché Gesù non ne dà una definizione, ma con delle pennellate diverse. Se avete ancora 5 minuti, io vi leggo solo, ma lo leggo perché così, il commento di Lutero, poi troverete gli altri di Cipriano, di Gregorio da Nissa, con le date anche dei periodi in cui sono vissuti questi personaggi. Ma vi leggo quello di Martin Lutero perché è proprio simpatico. E così sentiamo anche un'altra voce. È uno scritto del 1500, quindi tipo un piccolo catechismo così. Lutero dice che tutte le parole di Dio hanno un doppio effetto su di noi: da una parte ci danno una bastonata sulla orecchia, dall'altra però ci risollevano. E quindi usa un po' questo schema per analizzare anche la parola venga il tuo regno. E lui dice: il primo danno, cioè appunto la prima batosta che ci dà questa parola, che si può riscontrare nella richiesta del regno di Dio, è che Dio Padre è ancora privo del suo regno in noi. Dio non sta ancora. È ancora senza, è ancora privo del suo regno in noi. Quindi quando noi diciamo venga il tuo regno, è perché Dio non regna ancora su di noi, sul nostro cuore, sulla nostra vita. E questo perché trova opposizione da parte nostra. Cioè, non che Dio non avrebbe voglia di governare, ma è che noi gli opponiamo. Penso a Sequeri che dice: prima di farci la domanda sul male inspiegabile, facciamoci delle domande sul male che noi provochiamo e potremo evitare, ma non evitiamo. Che non vuol dire che l'altro, non so, la sofferenza innocente non è una roba che facciamo finta che non c'è, ma cominciamo a togliere tutto quel male evitabile ma non evitato. E allora Lutero dice: ma trova posizione da parte nostra. Poi c'è un altro secondo danno, un'altra bastonata. Il secondo danno è per noi. Anche noi, siccome il regno di Dio non è ancora venuto, ci troviamo come in terra straniera, come privi di un principe che ci possa proteggere, e così siamo esposti a ogni sorta di pericoli per il corpo e per l'anima. Allora, è un discorso del 1500, però è interessante. Dice: quando io dico venga il tuo regno, mi accorgo che, caspita, Dio non regna ancora dentro di noi, per colpa mia, non per altro, chiaro, per colpa mia prima di tutto. E poi il fatto che appunto Dio non regna ancora su di me vuol dire che io sono ancora un po' lì, allo sbaraglio, può succedere un po' di tutto. Ma Gesù, per fortuna poi c'è l'altra parte, ma lo stesso Gesù ci insegna che pur essendo noi ostacoli al regno, noi stessi possiamo pregare e bramare di uscire dalla nostra miseria senza disperare. Quelli che confessano di ostacolare il regno, eppure supplicano che esso venga, riceveranno da Dio il perdono. Bello, no? Come dire, io mentre dico venga il tuo regno riconosco che Dio non regna ancora su di me, purtroppo non lo può fare perché io sono di ostacolo e quindi io sono anche esposto a qualunque roba, ma intanto chiedo contemporaneamente che questo venga e quindi ricevo già il perdono in qualche modo. Bello, interessante. Lui che poi aveva una visione anche molto particolare del peccato, insomma, anche tormentato quest'uomo lì. E poi vabbè, ci dice, va avanti e fa un commento, dice: ci sono due regni, il primo quello del diavolo e poi c'è il regno di Dio. Leggo solo prendiamo le cose con le molle, calcolando che è del 1500. Il primo regno è il regno del diavolo, fatto di peccati e di disobbedienza. Questo regno costringe i credenti a una lotta serrata contro tutte le concupiscenze. Tutti quanti siamo in questo regno, finché non raggiunga il regno di Dio, ma ognuno in modo diverso. Sono quelli che lottano con forza e pazienza, ci sono quelli che lottano con forza e pazienza, ci sono quelli che sembrano stare molto bene in questo regno. E questi ultimi sono come le canne dell'organo, che suonano forte, ma non hanno né parola né intelletto. Quindi, al di là dell'immagine del diavolo, insomma, c'è qualcuno che ci sta anche bene a non fare opere di giustizia, se vogliamo. E poi c'è l'altro regno, quello di Dio, cioè il regno della giustizia e della verità. Che cos'è la giustizia di Dio e del suo regno? E la risposta, che non vi sia più peccato in noi, ma che tutte le nostre membra, la nostra forza e potenza siano soggette a Dio e per il suo servizio, sicché noi possiamo dire con Paolo, non più io vivo ora, ma Cristo vive in me. Dunque il regno di Dio non è altro che pace, onestà, umiltà, purezza, amore e ogni virtù, e che non vi sia ira, odio, amarezza, impurità e simili cose. Ah, è preso da un libro, Il Padre Nostro spiegato ai semplici laici. Non me lo ricordo. E poi vi leggo invece quel pezzo che ho già commentato prima, dicendo cosa bisogna fare perché il regno di Dio venga. E Lutero dice, ci sono ancora due pericoli. Alcuni vanno in cerca del regno facendo qualcosa, un pellegrinaggio, costruendo una cappella, per essere pii e giungere al regno ed essere salvati. Ma Gesù non ci chiede di andare al regno, ma di farlo venire in noi. La grazia di Dio e tutte le sue virtù devono venire in noi e noi le dobbiamo ricevere. L'altro errore è quello di chi si interessa solo alla propria beatitudine e chiede il regno come gioia e piacere in cielo. Ma così non si accorgono che il regno di Dio significa essere pii, onesti, puri, miti, mansueti, sì che Dio abbia in noi il suo possesso ed egli solo sia, viva e governi in noi in questa vita. A me è piaciuto questa cosa qua, perché è molto, cioè riguarda la concretezza di oggi, no? Abbiamo detto che la definizione del regno di Dio ci sfugge da tutte le parti e non riusciamo neanche a trovarla, perché niente ci autorizza a cercarla, a definirla, perché Gesù non l'ha mai definita. Però Lutero ha intuito delle cose interessanti, no? Il dire che non è una questione, quando io penso al regno di Dio non è una questione, ah, così sono, poi vado poi in paradiso e canto poi con l'arpa e strimpello l'arpa e canto i canti angelici, no, e essere, al di là degli aggettivi usati, no, pii, onesti, puri, miti, mansueti, in modo che Dio governi in questa vita, no? Fare un pezzettino, e quel piccolo pezzettino che possiamo noi, no? Penso a quanto poco ha potuto fare, se volete, quest'uomo, perché era in un carcere, è stato visto 13 anni in carcere così, eppure è riuscito a toccare delle persone con la propria vita, probabilmente neanche con grandi prediche, era cardinale, avrebbe dovuto predicare, e invece 13 anni senza un'omelia probabilmente, senza una catechese, eppure ha toccato il cuore delle persone. Io spero che da adesso in poi, quando diciamo venga il tuo regno, ogni tanto ci spunti questa roba qua così. Io lo dico prima per me, che l'ho scritta un po' di tempo fa e non l'ho già più ricordato tutte le volte che dico il Padre Nostro, però magari oggi quando dite il Padre Nostro sarebbe bello. Alla Città dei Ragazzi fanno questa cosa di, quando ai vespri o all'odi così, invece di dire il Padre Nostro di corsa, a ogni invocazione una pausetta di silenzio. In questo modo si va anche un po' più a ritmo, che invece a volte soprattutto nelle assemblee grandi c'è chi ha fretta di arrivare alla fine, arriva già, sembra che se arriva prima Dio lo ascolta prima, non so bene come funziona questa roba, ma sì, a volte ho la sensazione che quando uno riesce a dire il credo, soprattutto il credo al gloria che è più lungo, un po' prima, è perché secondo me così Dio lo ascolta per prima, non lo so, e così magari uno riesce anche a fermarsi un attimino, non so. Poi leggerete, ecco, l'altro era Primo Mazzolari, che ho preso, non ho citato direttamente, e poi alla fine troverete qualcosa di Andrea Gasparino, che fa un elenco di aspetti di cos'è il regno di Dio, a partire appunto dalle varie parabole. Di Maggioni trovate anche, c'è il commento sempre di Vita e Pensiero alle parabole evangeliche, che potrebbe essere un altro libro da leggere, da approfondire, cosa così. Bene, grazie. Grazie a te. Questa relazione sei in grado poi di mandarcela? Sì, in realtà Franco ce l'aveva già, ma io adesso l'ho. Ce l'aveva già? Sì, sì, però allora, perché lui me l'aveva letto e è rimandata con le correzioni, allora. Così, e mi aveva dato anche alcuni suggerimenti. La rimando magari stasera, sì, domani sera, così, perché adesso non so, per seguire un po' avevo fatto delle sottolineature. potrei anche togliere, perché tanto non serve, nel senso che serve una me per beccare. D'accordo. Allora posso raccontare quello che è inaspettato mi è successo stamattina? Pioveva, nevicava giù verso il Mortello, io ero tutta intesa in tentativa, e vedo un vecchio con la barba lunga bianca che mi fa così, e subito ho accelerato, poi dico no, fermati. Gli ho detto, entri così con le mani. Lui è entrato, gentile, educato, e andava fino a Chiusa Pesi, mi ha detto sì, accolsi, metta lì di fianco, io scendo. Mi ha ringraziata, mi ha baciato la mano e mi ha augurato buona fortuna. E chiuso la porta. Io sono rimasta in un momento di estasi, dove, come posso dire, ecco, è entrata la presenza di Dio, è stata una cosa, ma io non ho ragionato, non ho aspettato, sono venuta su in piena allegria, cioè piena euforia, perché mi era successo qualcosa e non sapevo che cosa fosse, ma era gioia. Che bello, sì. È stato stupendo. Bello. Bello. E adesso tu mi hai dato la risposta. Oh, bene. Esattamente. Sì, sì. Il regno di Dio è anche un po' inaspettato ed è fuori. Sì, noi sì. Noi dobbiamo far entrare. Sì, sì, sì, sì. Almeno così. Sì. Almeno, per me è stato così stamattina. Bene, grazie. Un suggerimento che ci ha dato Meo l'altra volta che abbiamo fatto qui l'Eucaristia. Anche a me dà fastidio la recita del Padre Nostro, sì. Chi più lo legge in fretta, no? Ad ogni invocazione, no? Padre Nostro che sei, ad ogni invocazione lui ci ha invitato a dire venga il tuo regno, buonasera. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. È stato efficace. È stato efficace per... Sì, sì, sì. Ma a volte spezzare, non so, sempre lo uso quando magari prego il rosario, no? L'Ave Maria, poi c'è quella brazzelletta, no? Che dice, non so più, c'erano due personaggi, uno dice l'altro, guarda che se riesci a dire tre Ave Maria di seguito, pensando proprio, senza distrarti, ti regalo un asino, non mi ricordo più. Ma figura tre Ave Marie, guarda, io dice, vabbè, proviamo, dice, Ave Maria piena di grazia, arrivata la seconda, ma l'asino anche me lo dai con il bastio oppure così, ecco, perché, per dire, il padre della città ci diceva, provate a salvare una parola dell'Ave Maria ad ogni Ave Maria, cioè concentrarvi almeno su una parola che non vi scappi quella lì, e ogni tanto lo faccio, no? Magari dice, beh, la prima decina mi fermo sulla parola Maria, la seconda il Signore è con te, l'altra decina, non so, prega per noi, così magari, oppure ad esempio ho sentito anche forse sulla televisione Rai Sa 2000 che è arrivato a Gesù, interrompe mettendo una parolina legata al mistero, che è risorto dai morti, che è sceso al cielo e poi Santa Maria Madre, così interrompendo, siccome è una roba che siamo abituati a dire, con una piccola interruzione ci risveglia un po' l'attenzione, poi non sarà questo, l'importante è che questa roba scaldi il cuore, ma... Volevo ringraziarti di Mantuan, io quando ero a Roma ho avuto la gioia di incontrarlo. L'hai conosciuto? Mamma. Siamo stati insieme e lui era molto amico anche di Don Luciano Mendes, che è un altro di queste persone che quando li incontri. E Don Luciano mi ha raccontato, Don Luciano un vescovo che era famoso, insomma, è molto amico anche di... Del Cermic. Infatti ho un'immaginetta presa al Cermic e non so chi sia, ma ce l'ho dentro, sì, sì, di questo Cermic. Ma la barzelletta vera è che andavano in treno, non so, da Roma verso Milano, mi sembra. E a un certo punto avevano tutti e due la valigetta e prima di entrare, così salendo, la valigia ha toccato la porta del treno, insomma. E si è aperta e dentro non c'era niente. Ma dice ma perché ti porti la valigia? Per amare gli altri, perché senza valigia non puoi mica andare in giro, bisogna avere una valigia. Penso io che sono stato esattamente 13 anni là così, porto qualcosa dentro la mia valigia, niente, la porto perché bisogna portare una valigia, che la fede, che non ci sono più credenti e non credenti, che ti fidi, che qualcuno ti darà quello di credere di cui hai bisogno. Pensa. Io penso sempre che mi fanno dire le cose nelle valigie che... Sì, sì, sì. Ma lui... Mamma mia. Ah, che bello che lei conosce. Il posto del Padre Nostro, quando si è in chiesa, si comincia, io cerco la mano dei vicini e lo trovo molto bello perché alla fine senti la stretta, no? E c'è qualcosa di tuo, ma c'è qualcosa di tuo che viene. È bellissimo anche questo. Grazie.